Il punto di Stefano Folli. Da quest'altra sponda del Tevere guardiamo con una certa invidia alla rapidità con cui la Chiesa si è data il suo nuovo leader e anche alla determinazione con cui sembra voler mettere mano al proprio rinnovamento. Da noi, come sappiamo, tutto è più lento e soprattutto più incerto, a cominciare proprio dalla volontà di voltare pagina. Di certo ieri sera San Pietro non è stato eletto un uomo che vorrà interferire con gli affari italiani. Il Tevere era già largo con il Papa polacco e poi con il teologo tedesco, continuerà a esserlo anche con il pontefice dei poveri, come lo definisce Obama. Da Papa Francesco dovremmo attenderci semmai la conferma della linea rigorosa sui temi etici, che è la stessa dei predecessori. No severo, ad esempio, ai matrimoni gay, ma su questo l'autonomia dei governi laici è assoluta, quando c'è una maggioranza parlamentare, si intende.